sai mai quando il ciclo è finito. Non parlo della gente, a me interessi tu, il tuo oggi, il tuo presente, la tua camicia blu. Ricordi quando estate andavi fiera al mare a prendere il tuo sole, torna che tu sei quella, ai suoi occhi sei scintillante.